Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, l'approssimarsi del referendum britannico sulla permanenza nell'Unione Europea e la prospettiva di una possibile Brexit, l'uscita di Londra dall'Unione Europea, sta facendo divampare il dibattito sull'Europa. Il dibattito, per carità, era già iniziato, purtroppo è cresciuto in gran parte del continente dell'Unione Europea un forte sentimento anti-europeo, e anche i risultati elettorali delle elezioni europee hanno dimostrato la forza di movimenti che l'Europa non l'amano. Ma perché l'Europa è diventata così impopolare? Proprio l'Europa che invece, per esempio in Italia, era popolarissima fino a pochi anni fa. Ed è possibile salvare quell'ideale? Come è possibile salvarlo? E soprattutto è possibile salvaguardare l'idea e la prospettiva dell'integrazione europea mantenendo le conquiste degli ultimi decenni? A queste domande risponde uno studioso molto esperto di Europa, di welfare e di scienza politica, cioè Maurizio Ferrera, che insegna a Milano all'Università degli Studi e che ha scritto Rotta di collisione, euro contro welfare, punto interrogativo, e pubblicato dalla Terza, 172 pagine, 16 euro. Il tema centrale del libro è proprio quello del welfare, che rappresenta appunto la grande conquista dell'Europa negli ultimi decenni. Lo stato del benessere segna quello che è il grande avanzamento sociale che anche l'Unione Europea ha consentito in questi anni, e proprio quello stato del benessere oggi sembra minacciato dalle politiche di austerità alle quali siamo tutti costretti per continuare a far parte dell'Europa. E di qui appunto nasce il successo dei movimenti euroscettici di cui parlavo, e lo stesso referendum in Gran Bretagna, dove molti inglesi ritengono di poter difendere meglio il proprio stato sociale e anche la propria identità rimanendo fuori dall'Europa. Questa almeno è la versione corrente. Ferrera analizza questa tesi a fondo, mettendo in luce per esempio che questa dicotomia risale a prima della grande crisi finanziaria. Il welfare infatti si basa sul concetto di chiusura, perché ciascun paese può offrire solo ai propri cittadini determinati servizi, mentre l'integrazione si basa sull'apertura, cioè diventiamo tutti cittadini di uno spazio comune. E rafforzandosi, l'integrazione dell'Europa ha portato a una sempre maggiore divaricazione di questa tensione tra apertura e chiusura. D'altra parte, lo stato sociale e l'inclusione sociale che essa persegue rimane un obiettivo irrinunciabile. E allora, come coniugare Europa e welfare? Ce lo spiega adesso l'autore. Buonasera Maurizio Ferrera. Buonasera a voi. Maurizio Ferrera, nel suo libro lei comincia mettendo insieme tre effetti che hanno determinato la crisi attuale dell'Europa: l'effetto della crisi economica, l'effetto delle riforme mancate e l'effetto appunto Unione Europea. Come si intrecciano questi tre elementi? Sì, innanzitutto l'effetto, diciamo, delle riforme mancate è quello che risulta dalle dinamiche, diciamo, pre-crisi. Il caso più eclatante è quello della Grecia, che non facendo le riforme è arrivata al 2007-2008 con un deficit enorme, peraltro non ufficialmente dichiarato. La crisi è stata come una grande ondata che si è abbattuta sui vari paesi e che li ha ulteriormente danneggiati, ha amplificato l'effetto delle riforme mancate. Ma poi c'è un effetto UE, che è quello forse più importante e quello meno discusso, meno visibile, e cioè il fatto che l'Unione Europea durante la crisi ha preso una serie di decisioni e impostato una serie di politiche che hanno, diciamo, invece di attutire l'effetto crisi e l'effetto riforme mancate, ha amplificato e intensificato i primi due effetti. Quindi, insomma, l'Europa porta una parte di responsabilità non trascurabile nell'aver aggravato gli effetti della crisi. E quindi la gente conclude che l'Europa sta minacciando una delle conquiste principali alle quali si è più affezionati, cioè lo stato sociale all'europea. Sicuramente tutti i sondaggi di opinione confermano che il welfare, insomma, la sicurezza sociale, la sanità, i servizi di assistenza sono molto apprezzati dai cittadini europei, nel bene e nel male, insomma, anche quando in realtà sono fonte di inefficienze e di sprechi, e con una specie di cortocircuito cognitivo tendono ad attribuire la responsabilità per i tagli, le razionalizzazioni, le riforme che sono state fatte, anche se non diciamo tutte quelle che avrebbero dovuto essere fatte nell'ultimo decennio, siano da imputare a questo vento che è stato sollevato dal processo di integrazione europea. E secondo lei, questo nel libro forse non c'è, ma mi incuriosisce il suo parere, lei come spiega il fatto che le opinioni pubbliche, quando poi sono chiamate a votare, anche in situazioni nelle quali c'è stato un netto miglioramento della situazione economica, vedi Spagna, comunque puniscono le leadership politiche che hanno seguito le politiche di austerità? Ma perché lì si intrecciano in realtà due fenomeni. Il fenomeno, come dire, della privazione relativa, anche quando l'economia comincia a riprendere, non è detto che i benefici di questa svolta si distribuiscano uniformemente tra la popolazione, e dunque diciamo, molti elettori continuano a percepire l'effetto della crisi, oppure anche se la loro posizione inizia a migliorare resta sempre a livelli diciamo inferiori a quelli diciamo percepiti nel periodo prima della crisi. Il secondo fenomeno con cui questo primo si intreccia è la crescita, l'aumento, l'intensificazione della antipolitica, cioè di questo senso di diffidenza, di intolleranza, di valutazione negativa nei confronti delle classi politiche, chiamiamole tradizionali, quelle dei partiti di governo sia di centrodestra che di centro-sinistra, ai quali anche viene imputata, anche per le loro responsabilità decisionali in sede europea, la crisi e i suoi effetti negativi. Quindi questi due fenomeni si intrecciano e una quota consistente, sempre più consistente di elettori tende a votare per i partiti di estrema sinistra o più frequentemente diciamo di destra populista, è un voto antisistema, cioè stiamo tornando a una politica antisistema, così come alcuni paesi europei, soprattutto l'Italia, l'avevano vista negli anni 50 e 60. Naturalmente lì l'antisistema era diverso, perché il sistema a cui ci si opponeva, a cui ci si voleva opporre, era il sistema di mercato, il sistema delle alleanze internazionali, pensiamo al Partito Comunista e ai partiti alla sua sinistra in Italia negli anni 60. Ora il sistema contro cui si vota è il sistema dell'Unione Europea e le sue politiche di austerità. E infatti lei nota come queste politiche di austerità abbiano in qualche modo sovvertito i paradigmi tradizionali della sinistra e della destra in Europa. Sì, perché la vecchia e tradizionale opposizione tra destra e sinistra si è in qualche modo incurvata. Al centro continuiamo a trovare i partiti di centro-sinistra e di centrodestra più moderati, che spesso governano insieme, pensiamo alla Germania, una grande coalizione tra cristiano-democratici e socialdemocratici, e questi rimangono pro-europei, favorevoli al processo di integrazione, con delle piccole variazioni tra di loro, che però si attenuano nel momento in cui sono costretti a governare assieme. A destra e a sinistra questa dimensione appunto tende a curvarsi verso il basso, perché sta emergendo una seconda dimensione che è ortogonale alla prima: Europa sì verso Europa no. E chi sta in basso, sia verso sinistra che verso destra, è contrario, si oppone all'integrazione così come è adesso, e soprattutto a una maggiore integrazione. I programmi dei partiti diciamo, euroscettici, così come si chiamano, vorrebbero mettere in discussione non soltanto un'ulteriore integrazione, ma diciamo, si propongono di fare dei passi indietro. Pensiamo a Marine Le Pen in Francia, a Matteo Salvini in Italia e a tutti gli altri leader euroscettici, i quali vorrebbero, un po' illudendosi, tornare a un'Europa di stati soltanto lascamente integrati, ristabilendo quelle frontiere, quei confini che c'erano un tempo e che il processo di integrazione ha invece gradualmente indebolito o addirittura eliminato. E tornando allo stato del benessere, lei come obiettivo pone quello di costruire una terza fase dell'Europa dopo la fase dell'Europa socialdemocratica e quella dell'Europa neoliberista, il neo-welfarismo liberale. Come si può costruire questa prospettiva? Ma questa prospettiva innanzitutto si può costruire attraverso un lavoro, diciamo, politico-intellettuale, cioè ragionando sui principi e sui valori che hanno storicamente ispirato il modello sociale europeo e il welfare a livello nazionale. Questi principi, giustizia distributiva, reciprocità, ospitalità, protezione dei più deboli, debbono essere in qualche modo ripensati per un assetto istituzionale che prevede che non ci siano più 28 case chiuse in cui giustizia, solidarietà, protezione valgono soltanto all'interno delle case. Bisogna ripensare questi principi immaginando che queste case si trasformino in una specie di condominio, il condominio europeo appunto. E a differenza delle case singole, il condominio ha una cassa comune, ha un'amministrazione comune, si deve basare su principi appunto di reciprocità, di mutuo interesse, quindi bisogna elaborare principi e valori che presiedano alla interdipendenza e alla interrelazione tra i sistemi di welfare nazionali, e io propongo di farlo attraverso l'istituzione di una Unione Sociale Europea. Non penso a un welfare federale, perché insomma è difficile immaginare che i sistemi pensionistici, i sistemi sanitari possano essere trasferiti la loro gestione, il loro finanziamento dal livello nazionale a quello sovranazionale. È stato possibile farlo negli Stati Uniti o nella Svizzera, ma erano altri tempi, era la prima metà del Novecento. Adesso questa opzione secondo me è difficilmente fattibile, però certo che un po' di spese e un po' di diciamo prerogative decisionali, di regole comuni debbono essere trasferite a Bruxelles più di quanto non avvenga ora. Per questo è importante, come dire, mutare il paradigma della politica economica e della governance economica dell'Unione Europea. Bisogna sostituire questo approccio con un approccio che dia più enfasi alla dimensione sociale, non per ripristinare o riprodurre a livello europeo il welfare imperniato sul principio dello Stato mamma che ha prevalso nei decenni diciamo d'oro dell'Europa dagli anni 50 agli anni 70, un welfare che incorpori il principio di non discriminazione, il principio di libertà di movimento, anche il principio di un corretto bilanciamento tra Stato e mercato. Grazie a Maurizio Ferrera, autore di Rotta di collisione. Buona serata. Grazie a lei e grazie agli ascoltatori. Ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Ci fu un tempo in cui anche l'appartenenza all'Italia era contestata da diversi italiani. Mi riferisco all'epoca post-risorgimentale, quando soprattutto nel centro-sud molti non vollero riconoscersi nel nuovo regno unitario. E ci racconta un episodio significativo legato a quel clima Alfio Caruso, che è uno scrittore studioso soprattutto in materia di storia e di mafia, che ha scritto Con l'Italia mai, la storia mai raccontata dei mille del Pape, pubblicato da Longanesi, 316 pagine, 18 18,60 euro. Siamo dunque nella Roma papalina. Papa Re è Pio IX, che alla sua elezione nel 1847 aveva suscitato tante speranze di rinnovamento e che vennero poi smentite. Il Papa smentì subito di volersi mettere a capo del processo di unificazione nazionale e soprattutto non volle scendere in campo contro l'impero austro-ungarico. Dovette subire molti traumi lui stesso. Nel 48 dilagò anche a Roma la rivoluzione, venne proclamata la Repubblica, lo stesso pontefice dovette fuggire a Gaeta e si creò una cerchia di consiglieri, tra cui tra l'altro, ricorda il libro, spicca un avvocato, Marcantonio Pacelli, il cui nipote sarebbe poi divenuto a sua volta Papa Pio XII. Poi c'è la Restaurazione, l'abrogazione della Costituzione che lo stesso Pio IX aveva concesso e una forte torsione di carattere ideologico del proprio pontefice. Per esempio la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione va proprio in questa direzione. Quando il processo di unificazione italiana si farà, Roma naturalmente resterà una delle prede più ambite. Nel 1859 il Papa perde l'Emilia, le Marche e risponde nel 1864 con il sillabo, l'elenco degli errori dell'età moderna, compreso tra l'altro il comunismo. Si appoggia ai francesi, fronteggia Garibaldi che dopo la terza guerra di indipendenza cerca di fomentare una rivolta a Roma ma viene sconfitto dagli stessi francesi a Mentana. Ma l'epoca del Papa sta per finire. Nel 1870 maturano le condizioni per un attacco italiano alla città eterna che viene sferrato il 20 settembre. In quell'occasione il Papa è difeso da un migliaio di volontari provenienti da varie parti del mondo, compresi per esempio 600 canadesi del Quebec e tanti altri contrari all'unificazione nazionale. Questi sono appunto i 1000 di cui ci parla Alfio Caruso, moltissimi dei quali rimasero poi fedelissimi al Papa e non vorranno mai riconoscere il Regno d'Italia che aveva ormai Roma come capitale. Andiamo un po' indietro nel tempo e parliamo di un altro uomo di chiesa che fu un altro grandissimo politico, il quale però forse possiamo dire, a differenza di Pio IX, ebbe un grande successo nel suo mestiere. Parlo di un italiano che diventò francese, il cardinale Mazzarino, che viene studiato nel volume di uno studioso dell'età moderna francese, cioè Stefano Tabacchi, pubblicato da Salerno. Il libro si intitola appunto Mazzarino, 362 pagine, 19,90 euro. Del cardinale Mazzarino forse molti di noi hanno un ricordo molto negativo, legato a cosa ne scrisse e come lo descrisse Dumas nei Tre Moschettieri, che si svolge appunto nell'epoca del cardinale Mazzarino. In realtà il cardinale fu un grande politico italiano, forse fu un modesto uomo di chiesa. Era nato in Abruzzo, anche se lui si definiva e si sentiva romano, la sua famiglia si era rifugiato in Abruzzo per sollevare la futura mamma dal caldo e lì Giulio nasce nel 1602. La carriera di Mazzarino sarebbe poi stata travolgente, avrebbe subito sviluppato delle grandi doti diplomatiche, non avrebbe avuto rapporti facilissimi, sempre facilissimi, con la famiglia dei Barberini e del Papa che esprimeva quella famiglia, cioè Urbano VIII, e viene quindi trasferito nel 1634 in Francia, ad Avignone, in una carica abbastanza secondaria. In Francia a quell'epoca regna Luigi XIII, che ha come ministro il grande, grandissimo Richelieu. Qui in realtà Mazzarino svolge delle funzioni diplomatiche importanti, da nunzio straordinario, tratta con lo stesso Richelieu, che diffida della politica papale. I rapporti tra la Francia e il Vaticano non sono facili, ma Mazzarino conquista la fiducia della corte che lo richiama definitivamente a Parigi. Qui affiancherà Richelieu, diventa cardinale nel 1641 e sostituirà appunto Richelieu l'anno successivo, dopo alcuni mesi di incertezze relative al ruolo che avrebbe potuto coprire lo stesso Mazzarino. L'anno dopo, nel 1643, muore il re, il figlio, che sarebbe poi diventato Luigi XIV, è ancora bambino, e la Francia è governata da una reggenza affidata alla regina, della quale diventa consigliere Mazzarino fino alla sua morte nel 1661, periodo nel quale esercita praticamente un potere amplissimo e fortissimo su tutta la Francia. È un lungo, lunghissimo periodo in cui appunto sarà praticamente a capo di quel paese e fu certamente una figura discussa Mazzarino, per il potere e le ricchezze che accumulò, per il modo in cui esercitò quel potere, ma che fu sempre fedele al re. A Agli appassionati di storia segnalo il confronto tra due grandi, anzi grandissimi studiosi francesi, Jacques Le Goff, che è morto un paio d'anni fa, e Jean-Pierre Vernant, che è morto nel 2007. Il libro si intitola Dialogo sulla storia, pubblicato dalla Terza, 70 pagine, 14 euro, ed è tradotto da Michele San Paolo. Questo libro nasce da una serie di conversazioni radiofoniche incrociate tra i due grandi storici, conversazioni che erano avvenute nel gennaio del 2004 ed erano state condotte da Emmanuel Laurentin. Vernant è uno studioso di arte antica, Le Goff soprattutto famoso per i suoi studi sul Medioevo. Entrambi qui sottolineano l'importanza di un approccio rivoluzionario alla storia, ossia la transdisciplinarietà, cioè lo studio della storia attraverso anche le scienze sociali, in particolare la linguistica, la sociologia e l'antropologia. Un altro grande storico francese, il maestro di tanti studiosi del secondo Novecento, fu Marc Bloch, che venne fucilato dai tedeschi nel 1944. Di lui esce un libro di cui è coautore, l'ha scritto infatti con un altro studioso francese, in questo caso un filologo, Joseph Bédier, morto qualche anno prima, su una pagina decisiva della storia dell'Europa di cui si celebra in questi anni il centenario, cioè la Prima Guerra Mondiale. Si chiama il libro Storia psicologica della Prima Guerra Mondiale, curato da Francesco Mores, è tradotto da Antonio Rosi e Alessandro Bresolin. È pubblicato da Castelvecchi, 118 pagine, 14,50 euro. Si tratta di due saggi dei due studiosi scritti intorno al 1920, quello di Bloch l'anno successivo, e questo in particolare diventò subito un saggio molto importante, giudicato fondamentale nello sviluppo degli studi di quel periodo. Si intitola Riflessione di uno storico sulle false notizie della guerra. E in queste pagine Bloch affronta il tema della guerra attraverso la psicologia della testimonianza, che permette allo storico di, scriveva, ripulire con mano più precisa l'immagine del passato dagli errori che lo oscurano. Errori compresi quello dell'interpretazione della guerra, alla quale lo stesso storico aveva partecipato. E sui vari aspetti del dibattito che porta l'Italia a partecipare alla Prima Guerra Mondiale, alle reazioni delle varie famiglie politiche a quel momento così traumatico per la politica e la storia italiana, vi segnalo un libro curato da Francesco Perfetti, La Grande Guerra e l'Identità Nazionale, il primo conflitto mondiale nella politica e nelle istituzioni, pubblicato dalle Lettere, 246 pagine, 16,50 euro. Abbandoniamo la Prima Guerra Mondiale, veniamo alla Seconda Guerra Mondiale, anzi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, col libro di uno studioso e giornalista di origine ungherese, Victor Sebestyén, che ci riporta al clima di esattamente 70 anni fa. Il suo libro infatti si intitola semplicemente 1946. La guerra in tempo di pace, pubblicato da Rizzoli, 494 pagine, 28 euro, ed è tradotto da Daniele Diderot e Andrea Zucchetti. Come ricorderete, nel 1946 la guerra è ormai conclusa da tempo, ma i danni del conflitto continuano a dominare il panorama anche fisico dell'Europa e le prime conseguenze sconvolgono il mondo moderno. Nel 1946, infatti, spiega l'autore, ebbe inizio la guerra fredda, il mondo si spaccò in due ideologie, l'Europa cominciò a dividersi fisicamente ai due lati di una cortina di ferro, avvennero le decisioni preliminari alla creazione di una patria ebraica e nacque l'India indipendente che abbandonò l'impero e fece crollare l'impero britannico. C'era assai poco ottimismo in quegli anni, molti paesi, soprattutto la Germania, ma non soltanto, erano distrutti, addirittura affamati, soltanto gli Stati Uniti emergevano come illesi da quella grande catastrofe. La Russia conquistò gran parte dell'Europa orientale e in quell'occasione, scrive l'autore, più che ingenuità, gli alleati occidentali dimostrarono cinismo, lasciarono che i russi continuassero a combattere e cadere sul fronte orientale, in tempo di guerra ovviamente, in modo che restassero uccisi meno soldati angloamericani quando alla fine fosse arrivato il D-Day. Più a lungo Roosevelt e Churchill avessero rinviato l'invasione della Francia, più territori sovietici avrebbero conquistato nell'est. Si trattò, scrive l'autore, di un calcolo semplice e ben ponderato. Più morti russi significava meno vittime americane e britanniche. Chi può sostenere che avessero torto? E dunque nel libro troviamo le tappe importanti di quell'anno fatale, il cui impatto fu decisivo per almeno quattro continenti. E qui in Europa, e torniamo al tema dal quale siamo partiti in questa puntata, nasce un'idea abbastanza visionaria, quella di poter costruire un'Europa unita e pacifica. Conclude infatti il libro l'autore, i primi segni di quella che sarebbe diventata l'Unione Europea vennero piantati da economisti, politici e grandi imprenditori allo scopo di legare insieme economia e mercati così strettamente da scongiurare il ripetersi di una guerra come quella che aveva distrutto quasi interamente il continente. E a questo punto... Il confettino. Troviamo un medioevo di fantasia nel libro di Gilles Bachelet che si intitola Cavaliere Panciaterra, tradotto da Rosa Vanina Pavone, per il Castoro 15 euro. E questa è la storia di un coraggioso lumacone che, armato della sua corazza, riuscirà a dare una svolta imprevista al conflitto con l'avversario che minaccia il proprio campo di fragole. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Andrea Roccabella in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro chiocciola del 24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.